Storiacce di Raffaella Calandra. Una piccola stazione in mezzo a nebbia e neve. È qui, tra Germania e Danimarca, la nuova porta stretta dell'Europa, qui dove avviene la selezione tra chi prosegue ancora il viaggio verso nord e chi invece viene rispedito indietro. Ritornano i controlli alla frontiera nella penisola scandinava dopo oltre 50 anni e cambia del tutto l'atmosfera anche in Germania, dove dopo la notte di Colonia i migranti non sono più così willkommen. Espulsioni più facili e veloci, ma anche raid xenofobi. È la Stimmung, per dirla con una parola tedesca, che si è modificata del tutto in questo inizio di 2016 sull'accoglienza dei richiedenti asilo, tema cruciale nell'anno dei record appena concluso. E quando il piano europeo della ricollocazione dei migranti si rivela di fatto un flop, le espulsioni potrebbero diventare più facili anche da noi. Parola del ministro dell'Interno Angelino Alfano a Storiacce. Da qui allora, dalla nebbia di Flensburg e Padborg tra Germania e Danimarca, parte questa puntata di Storiacce. Per commentarla, la pagina Facebook di Storiacce o su Twitter, l'account Raf Calandra. Danimarca. Quando la polizia blocca le cinture di sicurezza sul pulmino, Fatima e i suoi cinque fratelli salutano col segno di vittoria. Stanno per entrare nella nebbia di Padborg e dentro la loro nuova vita in Danimarca e lo fanno con i vestiti nuovi appena ricevuti dall'altra parte del confine dai volontari di Flensburg. Giacche per la neve e scarpe al posto di pantaloni corti e sandali. È qui, in questo ultimo comune a nord della Germania, che già si capisce chi potrà proseguire il viaggio e chi invece dovrà dirigere altrove la propria vita. Ora che prima in Svezia, poi in Danimarca, sono stati reintrodotti i controlli alla frontiera ed è lì che Storiacce vi vuole portare. Da Hamburgo a Flensburg accompagno una famiglia del Kuwait. Madre, padre, 6 bambini. Nessun cappotto e nessuna parola di inglese o tedesco. Neanche sanno che quando il treno si ferma non siamo ancora in Danimarca. Scritte in arabo ed ex profughi, che ora invece indossano le pettorine dei volontari, spiegano loro che siamo nell'ultimo avamposto della Germania e che d'ora in poi il viaggio non è più assicurato. Dall'estate a dicembre circa 100.000 persone sono passate di qui, ora molte meno, stima Heinz Nermer Jeweski, battagliero punto di riferimento di questi assistenti sociali. Wenn hier Flüchtlinge ankommen, kriegen sie zuerst was zu essen, was zu trinken. Quando i profughi arrivano, qui ricevono innanzitutto da mangiare e da bere. Verifichiamo che siano sani, altrimenti diamo loro medicinali e medici. Ci prendiamo cura dei bambini. Qui poi a quasi tutti diamo degli altri vestiti. Quasi tutti vogliono proseguire il loro viaggio verso Svezia, innanzitutto, e Norvegia. E in genere arrivano con i pantaloni corti e i sandali, nessuna sciarpa, nessun cappellino. Niente, insomma, di adeguato per la neve e il freddo che c'è qui. Fino a un mese fa, in grandissima quantità ne arrivavano diretti in Scandinavia. Ora non è più così facile raggiungerla, perché devono avere un pass. Devono essere in ordine con i documenti. E chi non li ha viene o respinto indietro dalla Danimarca o portato in prigione. E il più delle volte costoro restano in Germania alla fine. Ogni giorno circa 15-20 persone tornano indietro perché respinti o perché lo scelgono. Casomai non hanno trovato i familiari e fa troppo freddo. Capita anche questo. Nel freddo di questa stazione è stato necessario allestire anche una sorta di nido, un box dei giochi e un fasciatoio per le cure dei più piccoli che qui per la prima volta scoprono la neve. Col terrore negli occhi, ma anche il fatalismo di chi ha già la parte più lunga del cammino alle spalle, la mia famiglia, diciamo così, viene a sapere dei nuovi controlli ai confini, tradotto non avere più la sicurezza di raggiungere la meta. Provate a mettervi al loro posto. Provate ad immaginare di essere in viaggio da settimane, se non da mesi, con tutta la vita stipata in qualche sacchetto. Immaginate di essere quasi arrivati e di scoprire poi di poter essere rispediti indietro. Chi non ha i documenti a posto, chi cioè non vuole ad esempio restare a Copenaghen e non chiede qui l'asilo, si può fare anche il carcere, come è successo ad Azim, 18 anni, iracheno. Il 6 gennaio volevo andare in Danimarca. Non sapevo dei controlli, non avevo il pass. E allora sono stato 3 giorni in prigione. 3 giorni in prigione solo perché non avevo i documenti che dicevano loro. Mi hanno chiesto se volessi restare lì, se volessi chiedere asilo. Ma io ormai da tempo vivo in Germania e ho detto no. Ma c'è anche chi di carcere se n'è fatto molto di più. È instropicciato i foglietti di carta ed è sulla punta delle dita il destino di una famiglia in questi tempi di nuovi controlli alle frontiere danese e svedese. Da Flensburg riparto insieme a questa famiglia kuwaitiana. Ore 18, sembra notte fonda. Un treno internazionale va verso Copenaghen. Mohammad, Elik, Fatima e tutti gli altri salgono con la loro montagna di buste dell'IKEA da cui spuntano vestiti, sciarpe colorate, ma anche una ruspa che il più piccolo ogni tanto va a controllare. Fatima invece stringe la sua borsa personale, le due bambole appena ricevute. Sul vagone i loro bagagli sono come una montagna che quasi copre quel profilo stilizzato di un uomo che emerge dalle onde e che ricorda sulle pareti della carrozza a tutti che siamo nella carrozza del silenzio. Non proprio il posto più consigliato per sei bambini e una sorta di trasloco in atto. Il povero Mohammad ha appena finito di sistemare quel che resta della loro precedente vita che a bordo sale la polizia. Dopo 15 minuti di viaggio siamo infatti in Danimarca, a Padborg, e ad attendere ogni treno ci sono schiere di agenti. Salgono e a tutti chiedono i documenti. Tutti noi li mostriamo. Loro, i migranti, devono però scendere. Mohammad, Elik, Fatima, gli altri 5 fratelli e tutta la montagna di sacchetti sono allora di nuovo a terra. Li seguo perché è qui che avviene la selezione tra chi prosegue e chi torna indietro. Controlliamo i documenti e controlliamo tutti i loro bagagli per la nostra sicurezza. Verifichiamo passaporti e impronte digitali. Chi vuole restare e vuole fare domanda d'asilo in Danimarca può restare. Gli altri no. È semplice. Assisto a distanza a tutte le procedure. I bagagli di Mohammad occupano gran parte della sala d'attesa. Loro non hanno passaporti, ma è qui che vogliono restare e allora, per tutta la famiglia, il semaforo diventa verde e vengono accompagnati verso uno dei centri di accoglienza su un pulmino della polizia. I genitori dietro, Fatima e tutti i 5 fratelli nelle file anteriori. A ciascuno gli agenti chiudono le cinture di sicurezza. Non parlavano una parola di inglese o di tedesco, ma in treno avevamo comunque come fatto amicizia. Così ora che sono sul pulmino, Fatima fa il segno di vittoria. Salutano da dietro pure Mohammad e la moglie. Si voltano ancora finché l'auto non viene inghiottita dalla nebbia. Non a tutti va così. Quando torno a Flensburg, infatti, trovo gruppi di ragazzi afghani e Alim, che era stato rispedito indietro. Erano diretti in Svezia, mi dicono. Non volevano restare in Danimarca, ma non hanno potuto attraversarla. Copenaghen. By train? Best taxi. Problemi con i documenti, prova a spiegare il più giovane. Ma problemi, ci dice, ora pure in Germania. Cattiva gente, taglia corto, con riferimento alla caccia allo straniero partita dopo le molestie e le aggressioni alle donne nella notte di Capodanno a Colonia. Loro e molti altri ora ci riprovano a passare dall'altra parte per bypassare i controlli con bus o con auto di trafficanti. Ma una cosa è certa, dal 4 gennaio, dal ripristino dei controlli, il flusso è drasticamente calato e questa è diventata la nuova porta stretta d'Europa. Il primo ad accorgersene è stato uno dei controllori del regionale Hamburgo-Flensburg. Ora sono molti di meno i migranti. A settembre, nel momento di picco, un solo treno ne trasportava anche 300-400. Ora in media sono una trentina. E credo che questo sia dovuto soprattutto ai controlli, uniti ovviamente al freddo. Ma tra la nebbia e la neve per strada, il treno avanza comunque verso la nuova porta stretta dell'Unione. E in Italia che sta succedendo ora che gli sbarchi sono diminuiti e aumentano invece i casi di stranieri fermati con documenti falsi e immagini del califfato nei cellulari? Di espulsioni e di accoglienza, di rischio terrorismo ma pure del flop del piano europeo della ricollocazione dei migranti parliamo nella seconda parte di Storiacce col ministro dell'interno Angelino Alfano. A tra poco. Storiacce. Svezia e Danimarca ripristinano i controlli dopo 50 anni e quasi chiudono le frontiere. La Germania, sconvolta dai fatti di Colonia, dà il via libera ad espulsioni più facili e alla revoca dell'asilo per chi commette reati. La Slovacchia, da parte sua, fa sapere di non volere profughi musulmani, mentre aumentano anche da noi i fermi di stranieri con documenti falsi e immagini di guerra del califfato. Nel 2016, possiamo dire, è l'atmosfera generale verso i migranti che sembra essere cambiata, mentre mentre si rivela sostanzialmente un flop il piano europeo di ricollocazione dei profughi. Nella prima parte Storiacce vi ha portato sul confine tra Germania e Danimarca, tra Flensburg e Padborg, seguendo il cammino di una famiglia di migranti. Ora invece andiamo a vedere com'è la situazione qui da noi e lo facciamo con la ministro dell'Interno Angelino Alfano, a partire dall'ultima minaccia rivolta all'Italia da Al-Qaeda, che dice i romani sono tornati in Libia ma se ne pentiranno. Non è la prima volta che subiamo minacce attraverso dei video che vengono pubblicati proprio per darci la sensazione di un paese sotto attacco. Noi ci siamo sempre considerati un paese esposto al rischio terrorismo e lo siamo, e il nostro livello di allerta è un livello di allerta che anche dopo gli ultimi fatti di Parigi noi abbiamo elevato ulteriormente. Noi abbiamo dei piani appositi, predisposti in caso di emergenza, e abbiamo un sistema di prevenzione che serve proprio a diminuire il rischio. Purtroppo il rischio zero non esiste. Pensa che questo tipo di minaccia possa avere un riferimento più concreto rispetto ad altre minacce che l'Italia pure ha avuto da video, ad esempio, del Califfato, oppure vengono valutate allo stesso modo? Noi abbiamo seguito una linea che continuiamo a tenere, cioè quella di non sottovalutare nulla e al tempo stesso di non drammatizzare nulla. In Italia abbiamo dato il via ad importanti azioni che hanno sgominato delle cellule terroristiche, ha funzionato un sistema di prevenzione che è consistito nel controllo di oltre 75.000-76.000 persone nell'anno 2015, oltre 11.000 veicoli sono stati controllati, abbiamo controllato circa 200 navi. Tutto questo ha significato un lavoro grigio che però ha portato al raggiungimento di un risultato, che è stato il mancato verificarsi di un evento drammatico come quello subito in tanti paesi del mondo. La nostra tensione rimane alta, così come il livello di allerta, perché sappiamo che tutto questo lavoro di prevenzione e di intelligence è un lavoro che serve a diminuire il coefficiente di rischio, ma non ad azzerare il rischio. Certo, insomma, mi sembra di capire una minaccia seria, ma valutata come le altre, non in modo più pesante, diciamo, rispetto ad altre minacce che il nostro paese pure ha avuto. Noi abbiamo valutato ciò che è stato pubblicato come una minaccia da studiare attentamente, così come abbiamo fatto con le altre minacce. Ministro, lei ha firmato la prima espulsione per il 2016 di una cittadino macedone, mentre continuano in Italia ad essere fermati in varie città d'Italia, anche più di una volta in Liguria, persone sospettate, casomai con documenti falsi, che poi nei cellulari avevano immagini di guerra. Dall'altra parte è stato accertato anche in Italia il passaggio del super ricercato degli attentati di Parigi, Salah. Abbiamo studiato esattamente quello che è successo in Italia, abbiamo lavorato per impedire il verificarsi di fatti negativi e noi abbiamo assunto una linea di comportamento molto dura che si è tradotta in queste espulsioni. Cioè, le espulsioni a cui lei fa riferimento, da un lato sono la prova che esistono dei tentativi di radicalizzazione anche nel nostro paese, dall'altro lato sono la prova che il nostro sistema di prevenzione fin qui ha funzionato. Noi abbiamo avuto a che fare anche con combattenti stranieri, con i cosiddetti foreign fighters. Il nuovo anno per noi è cominciato come si era concluso il 2015, con l'espulsione di un ultra radicale islamico, un residente nel Trevigiano e titolare di permesso di soggiorno di lunga durata, il responsabile dell'associazione culturale islamica di orientamento salafita Fratellanza, che è un 38enne macedone che era stato segnalato dai carabinieri per l'adesione proprio a posizioni estremiste ed antisemite. Ecco ministro, a proposito di espulsioni, in questi giorni c'è un grande dibattito soprattutto in Germania dopo i fatti di Colonia, e la Germania ha introdotto un pacchetto per espulsioni più facili e più veloci, e la revoca anche del diritto d'asilo per chi commetta reati gravi, ma anche reati come quelli di cui si parla, diciamo, per i fatti di Colonia, quindi reati sessuali, reati anche con pene al di sotto di un anno. Pensa che un provvedimento del genere possa essere applicabile anche in Italia? Noi sul piano delle espulsioni stiamo davvero all'avanguardia in Europa. La nostra linea è una linea che sta facendo scuola in Europa e affardata proprio dalla fine del mese di dicembre 14, quindi dalla fine non dell'anno scorso ma di quello precedente. Abbiamo fatto già 70 espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato e solo nel 2015 ne abbiamo già contate 66. Io sono d'accordo con la linea della cancelliera, se la linea della cancelliera mi pare di capire che sia quella che le espulsioni vengono fatte per chi commette per chi commette reati, ma l'Italia ha già assunto una strada molto severa e molto dura in questa materia. Ma espulsioni solo per fatti di terrorismo o espulsioni anche per altri reati come reati sessuali in questo caso? Noi abbiamo bonificato fin qui il territorio nazionale da gente che ovviamente aveva manifestato spesso un atteggiamento violento di connotato antisemita e non solo antisemita. Ma è chiaro che commettere reati nel nostro paese e nel frattempo chiedere asilo e ospitale nel nostro paese è una contraddizione insopportabile che genera una nostra assoluta scelta di non sopportare, di non tollerare tutto questo. Quindi incompatibili anche i reati sessuali con richiesta di asilo? Ma in generale tu non puoi chiedere asilo politico in un paese e contemporaneamente commettere dei reati in quel paese. Mi pare che questo sia un principio assoluto. Quindi revoca dell'asilo per chiunque commetta reati? Io sono convinto che non si possa accettare da parte di un asilato italiano o di un richiedente asilo un atteggiamento non rispettoso non solo nei confronti del nostro diritto a vivere in tranquillità, ma anche addirittura dei nostri modelli di vita. Ecco il motivo per cui se già espelliamo per incompatibilità rispetto alla sicurezza nazionale coloro i quali inneggiano alla violenza, a maggior ragione quelli che commettono reati. Perfetto. Ecco, Ministro, in tutta questa emergenza immigrazione, l'Europa a un certo punto era arrivata a fatica ad un piano sulla ricollocazione tra i vari paesi dei migranti. A questo punto, però, vista dall'Italia, sembra che stia facendo un po' fatica a funzionare questo piano europeo di ricollocazione. È così? Noi abbiamo dei numeri da condominio sulla ricollocazione e quindi questo può essere un grande flop dell'Europa. E sempre volendo usare delle immagini, io non vorrei che su una nave che avendo bene avvistato un iceberg facesse rotta verso quell'iceberg inabissandosi, perché qui non siamo di fronte ad una terza soluzione. O l'Europa gestisce da grande continente politico istituzionale con una grande visione la questione dei profughi, condividendo il peso, le responsabilità, dando solidarietà ai paesi in difficoltà e al tempo stesso essendo severa sui rimpatri, ma se non c'è questo l'alternativa è il fallimento totale, non c'è una terza strada. Abbiamo delle cifre sulle ricollocazioni italiane? Ma niente, siamo a numeri da condominio, fin qui non ha funzionato, siamo a poche centinaia e questa è una cosa per noi davvero molto grave. Noi abbiamo mandato avanti i nostri compiti e cioè abbiamo rispettato le regole europee, identifichiamo tutti coloro quali entrano da noi ed abbiamo aperto due hotspot oltre che a Lampedusa anche quindi a Trapani e stiamo facendo esattamente quello che era negli accordi europei. È evidente che il nostro schema è sempre lo stesso, quelli che hanno diritto all'asilo perché scappano da guerre o persecuzioni devono stare o in Italia o ricollocati negli altri paesi europei. Una parte deve stare in Italia, una parte deve essere ricollocata negli altri paesi europei. Tutti quelli che non hanno diritto a stare in Europa perché non hanno diritto all'asilo devono essere rimpatriati, perché non c'è una possibilità di dire prego accomodatevi tutti. Ultima domanda su questo aspetto, Ministro, a proposito di dei richiedenti asilo. Proprio su questo la Scandinavia ha reintrodotto i controlli alla frontiera, prima la Svezia, poi la Danimarca, un tema di cui ogni tanto si parla anche in Italia, soprattutto rispetto alla frontiera col Brennero. In una situazione di questo tipo si può pensare anche ad un ripristino anche per l'Italia di controlli alla frontiera? Noi abbiamo senz'altro rafforzato di già i controlli nella frontiera nord-est del nostro paese, abbiamo mandato rinforzi perché sappiamo che quella è una frontiera che va vigilata e che c'è una rotta balcanica sempre viva che è stata la rotta dei vecchi contrabbandieri, che è stata la rotta dei mercanti di esseri umani che trafficano in esseri umani nel portare verso il nord dell'Europa le persone che spesso scappano da guerre e da persecuzioni ed è stata anche, o rischia di essere ancora, la rotta dei foreign fighters, dei combattenti stranieri. Quindi abbiamo mandato rinforzi su quella frontiera. E, ma non controlli obbligatori a tutti? Noi abbiamo fatto dei controlli che sono dei controlli a campione che hanno consentito di rendere efficiente un sistema di controllo, per cui fin qui noi non abbiamo avuto grandi motivi di preoccupazione, ma siamo pronti ad affrontare ogni questione che si possa verificare. Noi per esempio specificamente al Brennero per il momento non abbiamo una situazione che desta preoccupazione per il momento, sicché il timore